A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. A certe latitudini ognuno prima o poi incontra la propria di 'ndrangheta. Sotto le vesti ingannevoli di chi ti offre aiuto economico nei momenti di difficoltà o in quelle minacciose di chi ti punta una pistola contro. Può essere la talpa che dà la dritta per l'affare giusto oppure la sanguisuga che gli affari poi te li porta via del tutto. A certe latitudini la 'ndrangheta può avere anche i tratti ben noti di propri familiari o quelli sconosciuti ma subito riconosciuti di chi un giorno ti riempie di botte e ti lascia a terra mezza morta. La 'ndrangheta a volte, se non uccide direttamente, te lo fa fare con le tue stesse mani. Così è stato, ad esempio, per Maria Concetta Cacciola, testimone di giustizia. La sua 'ndrangheta l'ha incontrata da subito nella sua famiglia, la stessa che poi l'ha spinta a togliersi la vita con l'acido muriatico e che per questo ora è a processo. Alle facce, invece, degli uomini che la minacciarono, di quelli che poi la sequestrarono e la picchiarono, la 'ndrangheta incontrata da Rosi Canale, giovane donna calabrese, coraggiosa imprenditrice e poi anima del movimento delle donne di San Luca. Una 'ndrangheta vigliacca che prima trama alle spalle della signora Malaluna, che coi suoi capelli rossi e tacchi alti non rispettava le regole di Reggio Calabria e che poi si presenta sfacciata e violenta alla sua porta con un nuovo carico di minacce che l'hanno portata ora a lasciare l'Italia in coincidenza dell'uscita del suo libro La mia 'ndrangheta, scritto insieme ad Emanuela Zuccalà. Purtroppo in questo momento il mio paese non è in grado di garantirmi una condizione di sicurezza e di protezione, per cui sono dovuta andare via per delle ripetute minacce di morte che mi sono giunte negli ultimi 6 mesi, 7 mesi. Hanno recapitato la testa mozzata di un coniglio a casa mia, 2 uomini si sono presentati a casa mia a Roma da mia madre, si sono presentati come dei postini, hanno spinto la porta, cercavano me, io non ero in casa in quel momento e hanno detto molto chiaramente a mia madre che se avessi pubblicato il libro mi avrebbero tagliato in pezzi e dato in pasto ai porci. Il suo libro e la sua storia va a toccare quello che in questo momento è forse uno dei punti in cui la 'ndrangheta si sente anche più fragile, che è quella delle donne. Il fenomeno nuovo, positivo, che negli ultimi mesi, negli ultimi anni appunto si è registrato in Calabria è proprio quello dell'inizio di una collaborazione da parte delle donne che è passata attraverso spesso travagli complicati, tragici, e quindi è un punto particolarmente sensibile ed è forse anche questa la ragione per cui un libro sulle donne poteva così tanto spaventare anche i clan. Che ne pensa? È per questo? Un libro crea consapevolezza, è qualcosa che rimane, qualcosa che passa di mano in mano e di coscienza in coscienza, quindi sicuramente spaventa. Riguardo il fatto della collaborazione delle donne, io per esperienza personale dico che, avendo vissuto con molte di queste donne, non è assolutamente facile il ruolo che vivono delle condizioni di vita che sono psicologicamente terrificanti. Non si sceglie la famiglia in cui nascere, a volte ci si rende conto del cognome importante a distanza di anni. Maria Concetta Cacciola, dopo aver fatto la sua scelta di pentirsi o comunque di collaborare, è stata trovata morta. Una donna che vuole togliersi la vita non credo che ingerisce l'acido muriatico, credo che sia una delle morti più dolorose e strazianti che uno si possa augurare. Invece secondo me è un messaggio molto preciso nei confronti di chi rimane: bruciare tutto ciò che viene fuori dalla bocca e quindi con quest'acido dare un segno molto molto eloquente, cioè chi parla fa questa fine. Infatti poi per la sua morte sono stati arrestati i suoi genitori, i suoi parenti, proprio per induzione al suicidio, e c'è un processo in corso proprio su questo. E la sua storia, come molte altre storie, lei era una testimone di giustizia, ma anche quella dei collaboratori di giustizia, sono spesso storie travagliate di decisioni, di passi indietro, spesso facendo leva, come è stato in questo caso, su uno dei sentimenti sentimenti più forti che con un ricatto di questi sentimenti, che è quello dei figli. Le racconta la sua 'Ndrangheta, che è appunto una storia di rapporti e di contatti proprio con queste donne, a partire dal movimento delle donne di San Luca. La vita di una donna in un paese così profondamente intessuto di 'Ndrangheta. Per esempio c'è la figura di Teresa Strangio, che è una figura rivoluzionaria all'interno del paese, la madre coraggio che decide di perdonare gli assassini del figlio e del fratello e che spezza queste catene dell'odio riportando la pace e interrompendo una faida che durava da 23 anni nel paese. Una donna che nonostante il suo dolore riesce a, proprio con la preghiera, con la fede, a superare questa perdita gravissima. C'è la storia di Antonia Marmo, madre di Marco Marmo, colui che era designato come bersaglio della strage di Duisburg, la quale invece chiede giustizia, invoca la giustizia e dice: il mio cuore brucia, se io potessi aprire il mio petto e mostrarvi il mio cuore, voi vedreste le fiamme e le scintille. Una donna che non riesce a superare la perdita del figlio, che ha bisogno di esorcizzare questo male parlando, mostrando le foto di suo figlio, i vestiti, tutto quello che è rimasto di Marco. L'aspetto femminile umano che nessuno ha mai dato a queste donne. Sono delle donne che sono profondamente piegate, che hanno visto morire i loro figli, che hanno visto morire i loro mariti e che nonostante tutto vivono una quotidianità portando avanti questo fardello enorme. Spesso però nelle terre, diciamo così, fortemente radicate dalla malavita organizzata, le morti si piangono, ma poi si vendicano. Quando io sono arrivata a San Luca ho trovato una collettività sconvolta, fortemente criminalizzata, perché il dopo Duisburg è stato un periodo incredibile in cui tutti erano pronti a puntare il dito su San Luca e a scrivere e a dire le peggio cose di quel paese. E non ci dimentichiamo tra l'altro che la strage di Duisburg del 15 agosto 2007 arriva come risposta alla famosa strage di Natale in cui perse la vita Maria Strangio, che era appunto il Natale 2006. Quindi in questi 7 mesi di gap, il paese di San Luca ha vissuto un periodo di terrore. Gli uomini erano dei veri fantasmi, era diventato soltanto un paese delle donne, perché da un momento all'altro ci si aspettava una rivendicazione della strage di Natale. Quindi tutte queste persone, uomini e donne, hanno vissuto questo terrore, quest'ansia, questa tensione in maniera devastante sulla loro vita. La strage di Duisburg, nonostante sia stata una mattanza terribile, ha creato liberazione. È stata una liberazione perché alla fine, dopo di quello, il male era diventato così grande che si è annientato lui stesso. E il ruolo di Teresa è stato straordinario, perché lei, appunto, attraverso il perdono, senza invocare alcun tipo di vendetta, ha riportato la pace nel paese. Quindi, per rispondere alla sua domanda, quando io sono arrivata a San Luca non ho trovato nessun tipo di volontà, ma neanche recondita, nel cercare nuovamente vendette o motivi di riaccendere qualcosa che si doveva. Comunque. Cioè di pareggiare i conti, ma appunto questa logica è stata interrotta dalla volontà di una donna protagonista di questa faida, come Teresa Strangio, i cui figli sono stati uccisi a Duisburg, che ha detto basta. Il figlio Francesco di 16 anni è stato ucciso a Duisburg insieme al fratello. E lei, una delle cose più, credo, significative che abbia detto in quei giorni fu proprio questa: chi entra nella mia casa deve entrare esclusivamente per pregare, chi ha voglia di inveire o di dire cose che non sono parole di benedizione per mio figlio e per mio fratello è pregato di uscire da questa casa. Lei, presentandosi anche ai funerali con questa maglietta bianca come segno di purezza e di innocenza ferita, ha riportato quella luce proprio nel paese per dire: abbiamo pagato tutti un prezzo altissimo, adesso è il momento di interrompere questa catena dell'odio. E l'esempio di Teresa lo hanno seguito tante nel loro cuore. Forse molte non hanno la forza di manifestarlo come ha fatto Teresa in maniera plateale, vestendo la maglietta bianca o proprio annunciando il perdono. Però io credo che a San Luca molte donne hanno patito, hanno visto morire i loro cari e nel loro cuore hanno perdonato. I cognomi a certe latitudini si mescolano e si confondono come i buoni con i cattivi, ma non le appartenenze. Così, ad esempio, Teresa Strangio, la donna che ha di fatto interrotto la sanguinosa faida di San Luca, nonostante quel cognome pesante, è in realtà dell'altra famiglia, dei Pelle Vottari. Un puzzle di schieramenti che restava fuori però dalle stanze del movimento delle donne di San Luca, dove invece esistevano solo donne che la loro 'ndrangheta la subivano ogni giorno e silenziosamente la combattevano. Questa è la rivoluzione portata da Rosi Canale nel paese, simbolo dei clan di 'ndrangheta, ma che rischia ora di morire sotto il peso dei tagli e della burocrazia. Se avessi gridato giustizia e vendetta, fino a quando avrei resistito? La storia di una donna, stanca di lacrime e di funerali, è una delle storie incontrate nell'aspromonte di pietre e 'ndrangheta dalla signora Malaluna, che coi suoi capelli rossi e tacchi 13 osò dire no alle richieste dei boss. Lo fece quando si presentarono nel suo locale, minacciosi, o quando la tennero sequestrata in un casolare con le armi puntate. Ha continuato a dire no, la signora Malaluna, alla sua 'ndrangheta, titolo ora anche di un libro, scritto insieme ad Emanuele la Zuccalà, quando dopo la strage di Duisburg decise di tornare nella sua terra, la Calabria, e di andare nel cuore dell'inferno delle cosche, San Luca. Qui Rosi Canale, ora trasferita per ragioni di sicurezza negli Stati Uniti, puntò direttamente ad altre donne come lei, quelle che ora rappresentano il punto più debole dell''ndrangheta perché parlano e collaborano con la giustizia. Donne come Teresa Strangio, il cui figlio è stato ucciso nella strage di Ferragosto in Germania, o come le tante che in silenzio avevano cominciato a costruire una strada diversa in questo paese di ombre e di dolori. Ma il lavoro delle donne di San Luca è ora interrotto e rischia di essere abbandonato a se stesso, proprio come quella villa confiscata al superboss Antonio Pelle, divenuta una ludoteca ma ora sbarrata, insieme alle prospettive sognate a San Luca insieme a Rosi Canale. Che aprivano i giornali la mattina e si guardavano le foto dei morti per capire se magari anche di vista si conosceva qualcuno. A un certo punto ho aperto un locale giù a Reggio Calabria. Una sera mi sono accorta che all'interno del locale c'era appunto uno spaccio di stupefacenti. Vedevo un passaggio di palline di carta alluminio da una mano all'altra di alcuni ragazzi. Mi sono resa conto che quelle palline erano cocaina. Io ho buttato fuori questi ragazzi più volte fino a quando non è arrivato il livello superiore a dirmi lasciali lavorare. Nell'oppormi ovviamente c'è stato uno scontro verbale che poi si è trasformato in uno scontro di forze. Dopo tutta una serie di angherie di ogni tipo, sono stata aggredita una notte da due uomini che mi hanno lasciato semimorta sul terreno. Da quella notte la mia vita è cambiata totalmente. Ho avuto un periodo molto difficile in cui cercavo appunto di rimettere in sesto la mia vita perché ho perso tutto. Un bel giorno d'estate mi sono vista davanti questi sei morti a Duisburg in televisione e da lì è scattato qualcosa dentro di me. Mi sono detta: devo fare qualcosa per la mia terra. Quindi la strage di Duisburg in qualche modo è stata anche il suo personale, diciamo così, slancio, pretesto per riattivarsi per la sua terra, una terra da cui si sentiva in qualche modo allontanata, respinta. Lei è stata addirittura presa e portata via. La mia risposta, sì, a tutto questo male è stato quello di scegliere il posto che veniva indicato come l'inferno dell''ndrangheta e mi sono detta: se esiste veramente un posto che è proprio l'epicentro voglio andare lì. Una donna che nasce in una terra dove, come lei diceva, ogni mattina guardava i giornali e guardava il numero dei morti che c'erano state, le foto, sa che cosa c'è intorno a sé, riconosce l'andrangheta. Quando l'hanno presa e portata in questo casolare, sotto la minaccia anche delle armi, cos'è che le chiedevano esplicitamente? Dicevano che doveva chiudere il suo locale, doveva farli spacciare, qual era la richiesta a cui lei non voleva piegarsi? Chi vive a certe latitudini, soprattutto in dei piccoli centri, ci si conosce tutti e ci si riconosce tutti. Certi personaggi, invece di essere messi all'angolo e, tra virgolette, isolati, vengono invece considerati, come dire, delle persone per cui camminare sotto braccio diventa quasi un vanto. Purtroppo in una città come Reggio Calabria non solo è successo, ma continua a succedere. Non ci sono equivoci, è molto chiara la mappatura delle appartenenze, per cui io non credo, quando succedono determinati fatti o determinati coinvolgimenti anche in ambiti amministrativi e politici, che si dica no, non lo sapevamo. Cioè lei, quando se l'è trovata di fronte, le ha riconosciuti? Ma che cosa le chiedevano? Quando io sono stata presa e portata nel casolare, era stato in merito ad una mensa, avevo partecipato ad un bando pubblico e devo dire sfortunatamente avevo vinto l'appalto, che era già previsto che lo dovesse vincere un'altra persona, e quindi nel momento in cui l'avevo vinto io avevo guastato un po' i piani. La loro richiesta era quella di assolutamente lasciare la mensa, non firmare il contratto o mi avrebbero fatto saltare all'aria il locale. Proprio questa sua esperienza in qualche modo l'ha aiutata a creare anche un rapporto più diretto con le donne di San Luca, che lei incontra e racconta nel suo libro. Il Movimento Donne è stato rivoluzionario perché è diventato come uno spazio libero, come un porto franco, dove all'interno non c'erano più appartenenze, non c'erano più cognome, si parlava tutte in maniera serena. C'erano stati a un certo punto un po' dei problemi quando questo movimento era stato catalogato come un movimento anti-ndrangheta. Ovviamente, perché donne che appartenevano appunto a certe situazioni venivano etichettate come appartenenti ad un movimento antimafia, e quindi era come dichiararsi guerra in famiglia. A noi quello che ci interessava era costruire delle opportunità di cambiamento per il territorio, e già solo quello è il concetto di antimafia. Perché in un posto come San Luca, dove non c'è nulla e dove i giovani non hanno nessun tipo di opportunità e di sbocco, e diventano pedine di manovalanza per la malavita, esclusivamente per una questione anche di ozio, aprire delle iniziative, offrire a loro della formazione, già solo quello era rivoluzionario e antimafia. Ma adesso il movimento va ancora avanti? È in una condizione di stand-by. Già da un anno e mezzo la ludoteca, che abbiamo allestito appunto all'interno del bene confiscato già a San Luca, è chiusa. Purtroppo non abbiamo avuto i fondi per pagare la bolletta dell'energia elettrica. Credo che rispetto alle migliaia e migliaia di euro che si spendono quotidianamente per cose assolutamente inutili, non si sono trovati 30.000 euro per poter portare avanti un progetto come quello della ludoteca di San Luca, ripeto, posto con altissima concentrazione malavitosa, in cui i bambini vanno a giocare per strada, avevano avuto l'opportunità di poter imparare ad avere degli strumenti musicali, ad avere la palestra, a vivere una condizione di vita, come dire, da bambini. Non è stato possibile. Quindi ora quello spazio è chiuso e anche sottoposto al rischio di furti. Ecco, di chi era quel palazzo che è stato poi confiscato? La villa è stata confiscata alla famiglia Pelle, al boss Antonio Pelle, considerato un uomo di grande levatura all'interno della mappatura mafiosa della Locride. Quel posto è un posto che i sanluchesi soprattutto amano e hanno riconosciuto come proprio. Lei, parlando di sé, si definisce la signora Malaluna. Che vuol dire? Il mio locale si chiamava Malaluna. Lei immagini una donna di 30 anni, madre di una bambina, che con i capelli rosso fuoco, che cammina su un tacco 13 in un contesto provinciale come quello di Reggio Calabria. diventa per forza, come dire, un pugno nell'occhio, se non vogliamo dire addirittura nello stomaco. Io sono stata sempre etichettata come una persona fuori dalle righe, perché Reggio Calabria è un posto dove purtroppo, se non fai la maestra o l'impiegata postale e se non hai tre figli e la domenica vai a mangiare le polpette a casa della suocera, c'è qualcosa che non va. Venivo tra virgolette un po' ingiuriata la signora Malaluna, che però era un personaggio che veniva visto anche con una certa invidia. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare le puntate andate sul sito radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.